Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La compagnia Narro e Canto presenta lo spettacolo Brigantesse, idea, testo, organizzazione tecnica di Marina Leone. Voci narranti Marina Leone e Claudia Mineide. Musiche dal vivo dell'ensemble Sonate. State bene a sentire queste storie. Parlano delle nostre radici, della nostra terra. Servono a capire chi siamo. Sono storie di... sono soltanto un pezzetto di quella più grande, di quella nazionale. Sono storie di gente coraggiosa che difendeva il popolo, le tradizioni, il lavoro e che rischiava di essere annientata da un esercito di occupazione. Erano 200.000 uomini, guardie nazionali, infiltrati, avventurieri, mercenari, spie calate dal Piemonte. Tutto in nome dell'unificazione nazionale. Quelli che abitavano quelle terre e le lavoravano con amore e fatica e da sempre e ci tiravano fuori il pane per la famiglia e ci crescevano i figli e quelle terre le difendevano loro, quei contadini, ai piemontesi. Sapete come li chiamavano? Li chiamavano occupanti, invasori, aggressori. Già, perché l'esercito piemontese invece, che era ben attrezzato e potente, ben organizzato e ricco, voleva essere controllo di territorio, forza di unificazione. Dovevano compiere il loro dovere di patrioti. Dovevano fare i soldati coraggiosi e senza riposarsi mai. Che il soldato mica sa da stancare. L'Italia unita, via i Borboni, via lo Stato Pontificio, via il Regno di Napoli, il Regno delle Due Sicilie. Sì, tutta unita e intera doveva essere la nostra penisola. Basta con le divisioni, via tutti. Re, principi e granduche, pure i preti, sì, via. Tutta unita, la nostra bella Italia doveva essere. E così la fecero, questa bellissima unificazione. Era il 17 marzo del 1861. Thank you. Carlo Alberto, principe di Piemonte, e marchese di quello, quell'altro paese, che erano tanti assai, che io non me li posso ricordare. Si mise in testa che tutto quello che si faceva nel regno suo si dovesse fare in tutte le province del meridione. Tutte le leggi che c'erano lì da lui, quella che obbligava i giovanotti alla leva militare, la tassa sul sale, la tassa sul pane, insomma su tutte quelle tasse, tutte quelle cose che si poteva far venire in mente, e altre che magari non gli venivano proprio in mente, perché pure la mente di un principe certe volte è bella, piena assai. Insomma, tutto quello che si faceva, dove diceva lui, si doveva fare dappertutto, pure compresa l'isola della Sardegna, che da noi poi tutte queste regole, tutte queste tasse, non ce l'avevamo. E tutta questa storia di questo principe non l'avevamo mai sentita, ma chi lo conosceva questo principe? Non c'era mai stato dalle parti nostre. Ma allora è per questo che tanti uomini, giovani, vecchi, contadini o dissertori, scelsero la clandestinità dei boschi malgrado le minacce di morte? Certo, è così che cominciarono le rivolte. E i contadini che non volevano andare a combattere, tutti allo sbando, liberi, così, senza padrone, si dovevano ritrovare? Ma no, ma che, ma sta a sentire, sì, senza padrone, sì, poi, ma liberi da che cosa? Che quelli ai padroni certe volte finiva che ci si affezionavano pure. E da quelle terre non se ne volevano mica andare. Ma che ci capivano quelli di queste storie di unificazione, poi? Ma che vai dicendo? Se i padroni a quelli li facevano sentire come schiavi. Ma non fa niente se li facevano sentire schiavi, no? Ma che dice questo? Dico che quelli, i contadini, i pastori, i braccianti, erano riconoscenti ai padroni loro. Perché se non era per quelli la terra da coltivare non ce l'avevano. E lì sopra loro si sentivano a casa. Sarà... Ma sempre a fare i servi a loro stavano, però, che ai contadini due spiccioli per sopravvivere gli davano, e poi la terra magari se la vedevano pure portare via. Il destino dei contadini è che o ti rassegni o ti ribelli, oppure vai a fare la guerra con l'esercito borbonico. Ma quando va all'aria pure l'esercito borbonico, che ti rimane da fare? Contadini senza terra, soldati senza esercito. L'unica cosa che ti accampi è che sei fuori legge e disertore. Vai alla macchia, ai boschi, alle pietraie, scappi sulla montagna, ti nascondi dentro alle grotte, dentro la cavità dei tronchi. E la polizia armata con lo schioppetto ti viene a cercare. Ma le strade della montagna, quelli mica le conoscono come le conosciamo noi. E va a finire che corri, corri, ci si vanno pure a perdere. E quando prendono quelli che scappano, dicono che sono briganti, li chiamano banditi, ladri. E i giudici pronti subito a far processi, esecuzioni velocissime, 448. E che i briganti fanno casino con le armi, perché da un momento all'altro lasciano l'aratro e imbracciano il fucile. Questa guerriglia è stata capace di trasformare i contadini in briganti. Però quando i contadini sono diventati briganti e hanno cominciato a combattere, hanno cambiato anche il loro modo di pensare, hanno cominciato a organizzarsi da soli, liberi, senza padrone. Con quelle guerriglie hanno capito che avevano dei diritti. E loro questa cosa prima mica la sapevano. Però ci sono voluti 10 anni prima che finisse quella guerra, e così si è portata via 100.000 morti. Che le storie loro sono quelle di un mondo che si andava trasformando, ma che poi trasforma, è rimasto senza eroi. È stato uno scontro di civiltà, armato di potere, denaro, come sono sempre le guerre, no? E le donne? Sì, pure le donne, perché non erano solo gli uomini a banditare. E ci eravamo messe pure noi a fare le banditesse. Che a noi donne a starcene ferme no, non ci viene mica facile. Il senso dell'onore ce l'abbiamo scritto nei segni della faccia, delle mani. Il desiderio della libertà, prendere la parola, questo ci ha fatto diventare coraggiose, abili, forti pure a noi. Ma perché sempre a casa a guardare i picciritti e a girare la minestra dovevamo stare? E ci siamo ribellate pure a Cristo, come si dice, ci siamo ribellate alla tradizione. trova gli curgul ventu, aggrapili li porti della storia. Stasera voglio dare te un momento, la vita, lo passato alla memoria. Stasera con la vampa dell'amore scavo una fossa, la fossa allo dolore. C'è chi ho dolore, c'è chi ho tormento, caggia gli amori per l'umanità. Non è lo pianto che cangia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Gravo di pugna contro le dita, resto co sogno, scorro la vita. Canto e conto, conto e canto, e non perdi lo conto. Non tu benedicelo, ma è un cammino, manco la mano niga tu barrino. E vai ancora come va lo vento, cercare pace solo per un momento. Voglio spaccare, spaccare i cieli, ti fai chiovi, chiovi gli amori. C'è chi ti inganna, c'è chi comanda, e con silenzio modo si ne sta. E lo putiri con forza li potenti, è lo silenzio che ammazza l'innocente. Gravo li pugna con le dita, resto co sogno, scorro la vita. Canto e conto, conto e canto, e non perdi lo conto. Vigni a sto mondo quando la voscenza si schifiava pelli strati strati, tempi d'abusi di fame e di guerra, crescivo in mezzo a degli malannati, lacrime mute rinchiancive e quanti, la mia innocenza si la spartero in tanti. La mala gente, i libri potenti, tanti su tanti di sta società, non è l'amore che accresce ad ogni balla, ma lo favori che spargli poco manna. Gravo di pugna contro le dita, resto co sogno, scorro la vita. Canto e conto, conto e canto, però non perdi lo conto. Una battaglia nella battaglia, quella delle brigantesse. Salivano in montagna per difendere la dignità, per vendicare mariti, figli, fratelli, per dare senso all'essere anche noi di carne e ossa. Lo spirito libero, che se solo comincia a respirare libera sulla montagna, ah, quello si libera e non lo fermi più. Ah, che sempre che ci volevano affaticare a noi, dalle stelle della mattina alle stelle della sera. Ma una lapide che ricordi il nome di un brigante non c'è da nessuna parte, in nessuna piazza del meridione. Non c'è una via che porti il nome di uno di loro. Ma perché, scusa, quello della brigantessa ci sta? Sì, via dell'Itala c'è, a Nulvi nell'Anglona, terra sarda, a nord della Gallura per capirsi. È una stradina che poi porta in una piccola piazza che sembra un salottino. E lì, in quella via, c'è Palazzo dell'Itala, con la targa il comune pose a ricordo. E che le targhe le fanno di marmo. Così il ricordo diventa ancora più freddo del marmo. E quella targa c'è perché donna Lucia dell'Itala era nobildonna di famiglia sarda, figlia di Don Francesco dell'Itala Tedde. Ma poi però pure brigantessa è stata, mi pare. Certo, però la targa mica l'hanno fatta a tutte le altre, eh? A loro né di marmo e neppure di paglia. L'hanno fatta a lei perché era nobildonna. E vabbè, ma se Lucia fu nobildonna, ma perché si è fatta brigantessa? Storia misteriosa fu quella di Lucia, la banditessa nobile. Stammi a sentire. Finisso fai dare, finisso fai dare geniosa, taccami che ricarrosa, fare la dezza monzari camada, fare la dezza monzari camada, comare mia benita Samonza, comare mia benita Samonza, in tu non loghi che tu loghi che tu, in tu non loghi che tu soliano, in nie tutto non stiamo a mare, no cazzamo dota sai gonza, no cazzamo dota sai gonza, canta. Tenere zamora chi ringhe fino a su panno sa sbagliana deo canno ballana poscigadura ballana poscigadura o ghinie da pia l'origada o ghinie da pia l'origada fini su fai dare fini su fai dare geniosa sa camici che si che ricarro pare la dezza monda ricamada pare la dezza monda ricamada ballate comare mia ballate comare mia sa danza sullo budor su passa de nuvaro e su passa parolina ballate comare mia ballate comare mia o ghinie da pia l'origata o ghinie da pia l'origata fini su fai dare fini su fai dare geniosa se camici che si che ricarro fare la dessa monzari camada fare la dessa monzari camada fare la dessa monzari camada fare la dessa monzari camada non dobbiamo pagare più tasse. Diceva così Lucia dell'Itala, la banditessa sarda, in un comizio nella pubblica piazza, davanti a quasi tutti gli abitanti di Chiaromonte. La folla stava muta e la voce di Lucia invece era un tuono, un po' roca, senza emozione, colorata di bosco, di terra, di fiume. Mi fa sentire come è il suono della voce. Non dobbiamo pagare più tasse, non dobbiamo contribuire all'arricchimento dell'erario regio, non dobbiamo più sopportare le mani d'altri sulla nostra terra. Troppo sangue è stato versato. Non si può più convivere con chi ci governa, ci sfrutta, ci odia. Lucia a Giovanni Fais di Chiaromonte piaceva assai, eppure lei piaceva a lui. Erano uguali tutte e due, maschi e femmina, come due cicloni. Lucia, anzi, pure quando era piccoletta, quando era una ragazzina, già odiava le mogli, le sorelle di quei nobili fedeli ai Savoia. Come le odiava! Odiava loro e quella specie di galantuomini che se le portavano appresso, tutte incipriate. Piccirida faceva la guerra a loro come poteva. E poi qualche anno dopo è finita che l'hanno arrestata. 2 anni è stata chiusa dietro le sbarre della prigione. Poi sono venuti a liberarla e poi l'hanno portata al palazzo del re, dal marchese di Rovarolo. Però poi dopo proprio il re, proprio lui in persona, l'andò a interrogare. E come andò? E come non andò? Il re le prese la mano stretta stretta nella sua, poi le mise la mano sul cuore, anzi nella scollatura, e le fece promettere di stare buona buona, che non doveva più arrecare disturbo al governo, che se no l'avrebbero imprigionata un'altra volta. E poi disse che se ne poteva pure andare, che era libera, perché quando uno è figlia di un nobile non può mica patire la prigionia come le popolane. E Lucia però era così arrabbiata, ma così arrabbiata che diventò bandita, proprio per questo. E però a vivere libera, come una randagia, sempre sporca di terra, stretta al suo cavallo, lottava contro i Savoia per proteggere la terra e i compaesani. Guardava come facevano i briganti e faceva uguale, pure lei. Prendeva la mira e sparava con lo schioppetto. Boom, boom. Gli uomini le stavano ai piedi, non ne disprezzava nessuno, però solo amici e compagni di banda dovevano essere. Ah, era bella Lucia, era proprio una bella banditessa. E poi però fa quella vita, diventò come un uomo, c'aveva una faccia che sembrava quasi un uomo. E qualche mese è durata quella vita lì, poi sulle montagne l'hanno ammazzata. E chi l'ha colpita? Ma forse i pastori transumanti, per sbaglio. E forse è morta quella volta in mezzo all'incendio, quando andò a salvare Giovanni. Ma tanto è morta, in uno di questi modi. Ma tanto poi testimoni non ce ne stanno. E la gente racconta storie, storie, storie. E così hanno messo il nome di Lucia dell'Itala sulla targa di marmo, lì sul portone a Nulvi, e amen. Amore e coro, pensando a Tieso, don Zimmomentu, noi stesi in tristura, prenda e oro, né in dispiagere, o pensamento, assicuro che ti è solo bramo, t'amo forte e t'amo, t'amo e t'amo, sim essere possibile d'angelo, si spirito invisibile di cavo, sa sforma de furavo da echelu, su sole so di setto se informavo, poter dispensare cada bene, uno mondo bellissimo fratene, pro poter dispensare cada bene. Le hanno chiamate drude, amanti, malafemmine, sgualdrine, assassine, tutti modi sprezzanti per negare la loro forza, mentre il nome giusto invece è combattenti, protagoniste, resistenti, femmine, mogli, madri, figlie, sorelle, con un'idea precisa della loro guerriglia. T'assicuro che a ti è solo bramo, t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo, t'assicuro che a ti è solo bramo, t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo. Sono brigante io, no donna di brigante, diceva così Maria Oliverio, che si faceva chiamare Cicilla. Maria Oliverio, la più bella briganta della più nera Calabria, la brigantessa delle brigantesse, che fece tremare perfino i gendarmi dell'appena nato Regno d'Italia. Questa di Cicilla È una storia d'amore, di gelosia e di morte. Al momento dell'imputazione, 32 capi di accusa gravavano sulla sua testa, però lei ne ammise uno solo, l'uccisione di sua sorella. Era la notte della vigilia di Natale. Come una furia, con l'ascia della legna che stava lì vicino al cammino, con l'ascia cominciò a colpirla quella disgraziata di sua sorella Concetta. Era così forte il suo tormento amoroso, cioè aveva gli occhi pieni di sangue. Quella poveraccia si nascondeva sotto al telaio, quella poveraccia. E Maria, a mente lucida, per necessità, l'ha dovuta ammazzare. Quell'amore clandestino che era tornato come un vento di primavera, dolce e pieno di poesia, tra sua sorella e suo marito, l'accecava troppo, le faceva scoppiare il cuore addosso. Cicilla era la ragazza più bella del paese e si era sposata in tutta fretta con Pietro Monaco, un attaccabrighe disertore dell'esercito borbonico. Però prima sua sorella Concetta era stata l'amante di Pietro. E così lei, quando quei due si sono rimessi a fare l'amore, che doveva fare? E l'ha dovuta ammazzare. E già. E poi si è vestita da uomo, giacca e pantaloni di panno nero, gilet di panno a colori, capelli avvolti in un fazzoletto, e combinata così è scappata in montagna a dorso di un mulo. E lì finalmente ha trovato pace vicino al marito Pietro Monaco. Era una notte di maggio quando vennero i gendarmi per arrestarla. Sulle montagne della Sila ci stanno complici e protettori, più di quante sono le foglie sugli alberi, e insieme a loro ci stanno pure le spie. E ci sta un proverbio che dice: è peggio avere un nemico che averne 100. Un giorno un generale garibaldino, su una piazza, si è messo a dire che i briganti facevano resistenza, che protestavano contro la modernizzazione. Ma cose false, diceva. E loro si pigliavano tutto, la terra, incendiavano case, bestie, e sulla pelle nostra lasciavano ferite, distruzione. Sta a sentire. Il generale Garibaldino si mise a dire proprio così: ah, se potessi parlare io ad uno a questi gendarmi, a questi briganti, ah, gli farei capire io la forza dell'amore, la forza della verità, e loro si arrenderebbero alle mie parole. Si è messo a fare la morale quel bel Garibaldino col cappellino rosso, e così ha rammollito tutti, pure quelli della banda che capeggiava Pietro Monaco. Pure quelli della banda di Pietro Monaco, e certi pure quelli più fidati, il giorno dopo si sono resi a queste parole e sono diventati traditori. E così i soldati sono andati subito ad arrestare Maria e Pietro, e quelli poveracci sono scappati come due lepri sulla montagna, correvano nel bosco e boom! Quando hanno sparato a Pietro, quella pallottola gli ha trapassato il cuore, poi dopo di striscio ha ferito pure la spalla di Maria. E Maria non ha voluto che lo portassero in giro come un trofeo, perché i trofei li fanno diventare briganti quando l'ammazzano, trofei. E Cicilla allora ha abbracciato il corpo di Pietro suo e si è caricato sul cavallo e poi l'ha portato su in montagna, e lì con le mani sue gli ha decapitato la testa, poi ha acceso un fuoco e l'ha dato alle fiamme, perché il corpo di Pietro suo non ci doveva andare in mani ai nemici, manco da morto. C'aveva un cuore come una pietra quella donna. Capi d'accusa. In tribunale Cicilla si è difesa, che ferita al braccio e alla mano non poteva certo aver usato fucili e rivoltelle. Ma la condanna per fucilazione per lei stava già scritta prima ancora che cominciasse a parlare. La condanna a morte poi fu commutata e i giorni di Cicilla finirono ai lavori forzati. Betto ci dormi sulli cuscini, aio caffore, aio caffore. Betto ci dormi sulli cuscini, aio caffore. Minu sospiri, minu sospiri, fino a morire. Alzati Betto, fammi trasire. Minu sospiri fino a morire. Alzati Betto, fammi trasire. Betto ci dormi sopra bambaci, aio caffore, aio caffore. Betto ci dormi sopra bambaci, aio caffore. Non me do pace, non me do pace fino a morire. Alzati Betto, fammi trasire. Non me do pace fino a morire. Alzati Betto, fammi trasire. Dai giornali del tempo. Era il 16 febbraio del 1864. Nel carcere di Catanzaro furono scattate diverse fotografie che ripresero la brigantessa in tante pose differenti, così che la figura di Cicilla divenne molto famosa. La crudelissima furia, così era chiamata, la mostrarono prima bella, sorridente, ben vestita, con gli abiti tradizionali, e poi cupa, con la ferita al braccio, la pistola alla cintola, il fucile, il cappello alla calabrese, i pantaloni e la giacca da uomo. E furono quelle le prime fotografie che circolarono, arrivando anche nelle mani di Alessandro Dumas, che da allora cominciò a incuriosirsi di questa furia di donna. Tanto da sé e sul marito tanti articoli nel suo giornale L'Indipendente. E poi queste foto finirono perfino nell'archivio di un celebre studioso di criminologia, antropologia criminale, Cesare Lombroso. Sentite ancora come diceva Maria Oliverio, Cicilla. Per me c'era pronta la fucilazione alla schiena, una gentilezza perché sono una donna. Poi il re Vittorio Emanuele II mi ha graziato e così mi hanno portato ai lavori forzati, che secondo loro era un'altra gentilezza, perché secondo loro sulla strada della perdizione, mi ci aveva portato lui, Pietro Monaco. E lei invece, quello che aveva fatto tutto con la testa sua, de vedova disgraziata. Gliel'ha detto al giudice, ma quello non ci ha creduto. Ha detto che le femmine da sole non sanno reagire. Quella peggio, ha urlato ancora di più, con tutta la rabbia che ci aveva in gola. E così l'hanno rinchiusa un'altra volta. Poi quando stava in galera dissero che aveva corrotto le guardie, poi dissero che aveva cercato di ammazzare una guardia, poi basta. La storia di Cicilla è finita. C'aveva 34 anni. Quello che scrisse i tre moschettieri, il conte di Montecristo, insomma proprio lui, che già aveva visto le immagini di Cicilla martoriata fissata sulla lastra, scrisse anche un articolo sul giornale di Calabria, pensando di fare guerra ai briganti più con la penna che con la spada. Eh sì, ma la maggior parte di noi però era analfabeta. E poi manco quelli che sapevano leggere si andavano a informare, ma chi ne sapeva niente di giornali, di riviste, ma poi addirittura di libri, di romanzi. Lo scrittore andava dicendo che i briganti sono crudeli e che per colpa loro, di fanti e bersaglieri, fedelissimi e rispettosissimi dell'Unità d'Italia, ne stavano morendo assai. E andava scrivendo che le popolazioni si dovevano unire, armarsi, combattere i briganti e farli sparire. Ma il popolo mica stava contro i briganti. Ma no, ma che, anzi, alle bande gli facevano pure festa quando entravano nei paesi. Non c'era bisogno di liberare, di combattere, gli spalancavano le porte. Sui palazzi ci stava scritto evviva, evviva, che magari che fosse ritornato Francesco II un'altra volta a liberarli. Perché non erano soltanto i nobili a sperare di ritornare proprietari. Tutti volevano che tutto ritornasse in santa pace, come prima. Non erano soltanto i poveracci, i contadini a battere le mani. Sì. Michelina di Cesare, brigantessa. Mia madre mi raccontava che sono nata in una notte di luna piena. Sono nata nel periodo che il mosto sta per diventare vino. E le femmine cantano alle stelle e alla montagna. La storia mi vuole brigantessa per amore di Francesco, sì. È stato per amore che sono diventata brigantessa. Amore per la mia terra. E ho lottato per una vita migliore. È stato solo con questa mia forza che ho conquistato il cuore di Francesco Guerra, capo brigante. Ho accettato la mia sorte, come ho accettato la mia morte, ma non ho mai tradito. Dalla mia bella bocca non è mai uscita una parola intamante. Nata femmina, diventata brigante, morta soldato. Vestivo esattamente come gli uomini e portavo i capelli tagliati cortissimi. A volte usavo abiti femminili per nascondere sotto le ampie sottane rifornimenti e munizioni. E a nulla sono valse le sevizie, le torture. Hanno abusato del mio corpo. Io ero così giovane. Loro mi hanno ferita, vessata, torturata. Poi hanno esposto il mio bel corpo nudo in piazza, come monito alle popolazioni liberate. Ma la mia gente mi vendicherà con azioni armate contro di voi, piemontesi senza onore. Io vi dico che la montagna non prova dolore, che non ha paura. E non ha nemmeno vergogna, perché io sono la montagna e verrò ricordata come la leonessa che ha per compagna soltanto la luna. E di me rimarranno canti e ballate in memoria di un popolo sconfitto ma che non ha mai perso. I sogni di Michelina De Cesare, banditessa, sorella delle stelle, compagna della luna e figlia della montagna. Usate chitarre e tambure, perché sta musica sa da cagnà. Si me brigante fa, ci me paura, e ca scupetta uli me cantà, e ca scupetta uli me cantà. Non ce ne fotte le ore burbone, a terra nostra non sa da tucca, a terra nostra non sa da tucca. Magne creature, è un piemontese che in me caccia, è un piemontese che in me caccia. Scordatevi un nome, chi ce fa guerra non te ne pietà, chi ce fa guerra non te ne pietà. Ma come si sanno queste storie? I cantastorie, in giro da un paese all'altro, raccontavano leggende, storie fantasiose, memorie cancellate. Però, come si dice, quando le storie si raccontano solo di bocca in bocca, alla fine o non ci crede più nessuno, o chi sta a sentire si ricorda solo quello che gli fa comodo. Poi, di quello che hanno fatto le donne, che hanno imbracciato il fucile, per forza o per amore, è stato meglio imbastire soltanto favole. E nelle favole le hanno fatto somigliare alle streghe, che tanto pure loro vivono nei boschi, no? Ho capito. Le brigantesse erano diventate favole, favole da raccontare ai ragazzini davanti al fuoco acceso della sera, davanti al fuoco, prima che si addormentassero forse. Carte importanti, documenti d'archivio scritti nei registri, pochissimi, solo gli atti processuali e magari pure qualche lettera dei soldati, i diari. Che quei poveracci di soldatini, stretti stretti per mesi dentro alle trincee, magari di quelle donne furiose e combattive, si innamoravano pure. Perdere la testa per loro era fin troppo facile. A stringere tra le braccia quelle donne focose, mentre le incatenavano, il cuore cominciava a fare pum pum pum. Erano diverse, troppo diverse dalle loro morose piemontesi. I soldati scrivevano lettere a casa. Cara moglie, passo giornate e notti con la paura di morire, sparando senza saper chi uccido e perché. Ma questo è quello che mi comandano. Io non voglio male a nessuno. Sono contadino e sparo a questi contadini del sud che sono più poveri di noi, ma purtroppo sono andato soldato e se non sparo finisco fucilato. Le donne che incontro qui invece sono tutte buone e brave con noi. Ci curano, ci fanno dormire sui loro letti per farci riposare. A tutti danno da mangiare quel poco che hanno. E io, cara moglie, ti amo e ti penso, Ma che fine hanno fatto queste lettere? E i diari? E le fotografie? Ma sepolte, perse nelle cantine, nei solai, nei traslochi dei discendenti. Le donne sulle montagne erano pari agli uomini e certe volte anche più coraggiose e tenaci di loro. Qualche volta erano malinconiche, dolci, di cattivo umore. Durante i temporali non lavoravano mai, si facevano il segno della croce ad ogni tuono. E qualche donna faceva la guardiana di capre. Sulle montagne a cucinare ci pensavano gli uomini, alla biancheria pulita i contadini. Le donne mangiavano quando e come potevano, anche solo erbe selvatiche, tuberi, radici. In giro c'erano le spie, squadriglie di volontari interessati alle taglie che stavano sulle loro teste. Ma c'erano anche i sindaci dei paesi componenti della Guardia Nazionale, che però di notte stavano nelle grotte insieme ai briganti, gli portavano le armi, e di giorno invece facevano il loro mestiere da puritani. Andavano nei boschi per vendicare figli e mariti, e qualche volta pure per amore di un brigante. La montagna li faceva sentire forti, grandi. Ma dopo? Dopo? Dopo? Quando la guerriglia su e giù per le montagne ha trovato un po' di pace e qualcuno è riuscito anche a non farsi ammazzare, sapete che è successo? È successo che gli uomini sono riusciti a tornare liberi e una vita se la sono rifatta in paese, con la moglie e la casa dove comandare. E le donne no. Le donne che hanno scelto di salire in montagna e diventare brigantesse hanno perso tutto. Famiglia, lavoro, amore, pure le amiche. Come se la potevano guadagnare più la vita. Finito tutto. Oramai erano donne illegali, erano diventate donne perse. Neanche si potevano più sposare in chiesa e nemmeno più potevano stare in mezzo ai parenti. Non ce le facevano stare. Pure madre e padre non le volevano manco più riconoscere come figlie. Per paura, per disonore. E se avevano partorito, poteva essere che neanche se lo potevano tenere vicino quel figlio loro. Se non ti avevano ammazzato quando stavi in montagna, ti finivano ad ammazzare quando tornavi in paese. Eri finita, eri morta. E i processi, tutto di corsa e possibilmente senza spargere troppe notizie in giro, perché per lo Stato nascente non era bello far sapere che i militari, per quella specie di legalità, non potevano risparmiare nessuno, nemmeno le donne. Silenzio, mistero. Nessuno doveva più sapere niente, indifferenza. Le donne brigantesse prima sono state raggruppate ai briganti uomini e poi dopo le hanno cancellate, come se non fossero state nemmeno capaci di avere un ruolo. Io mi camuffavo da uomo, così mi scambiavano per un brigante qualsiasi. Stavo sempre in prima linea. Pure io avevo imparato a sparare con precisione e con disinvoltura. Dovevo, sì, volevo lottare contro l'invasione dei Borboni. Un'invasione che era insopportabile e secondo quelle come me, pure illegittima. E più loro ci disarmavano con la violenza, più noi eravamo decisi a non arrenderci. Anzi, sempre di più eravamo pronti a morire pur di non tradire. I piemontesi ci arrestavano e facevano i processi. Ah, che processi! Con l'appuntato dei carabinieri che prima mi aveva strappato i vestiti, poi mi aveva ammaccata di botte e violentata e mi aveva costretta a baciare la testa mozzata al mio marito, e all'ultimo mi aveva chiesto: ma sei proprio tu, Michelina di Cesare? Vero e confermato, Vostra Eccellenza. Certo che so io, in carne e ossa, rotta e ammaccata. Guardatemi bene, tantino, non mi metto scuorna. So io, e porto in avanza il figlio di Cecco, Francesco Guerra, coraggiosissimo capo della banda dei briganti. O voi siete scordate pure di sto. Allora, Siete stata l'amante del capo di piante Francesco Guerra. Ma che dite? Moglie, eccellenza, scrivete che moglie di Cecco sono. E prima di essere brigantessa, fui una femmina. Ho cercato di sopravvivere come sanno fare sempre le femmine. O mi sposavo, o facevo la puttana per 2 centesimi. Mi sono sposata. Ma Rocco Tanga mi è morto l'anno successivo. Pace all'anima sua. Non me n'è andata bene niente. Un giorno Cecco Guerra è venuto a rubare dal padrone dove stava a servizio. A fare tutti i servizi. Che non gli bastava mai versarmi la donna e fare i comodi suoi. E io zitto. E quello era l'unico modo per continuare a mangiare. E almeno lui, il padrone, non puzzava, no? Anzi. Lui era profumato. Come dicono, si è innamorato. E io di lui. Poi il prete ci ha sposati nella foresta. E ha detto, nella cattiva sorte. Ed eccomi qui. Mi avete arrestata, mi avete spezzata, ma non mi avete piegata. Non mi lamento delle botte. Che a me la violenza me l'hanno fatta da quando sono nata e oramai ci sono abituata. Essere fottute dalla vita. Ecco che ci aspettano i donne. E invece a fianco a Cicco mi sono sentita di fotterla io questa esistenza balorda. E adesso muoio senza rimpianti. Ho fottuto il destino e rido alla morte. Mare, mare, più scure mai. E momacciai, momacciai, dengolletai. Mare mai e sciosce mai. E mare mai, e mare mai, e mare mai. E scure mai, e scure mai, e scure mai. E momacciai, momacciai, dengolletai. Mare mai e sciosce mai. Sarelle mumma mangolurice, senza fegue, senza letto, senza pane, cumpanai. Mare mai e mare mai e mare mai e scura e mai e scura e mai e scura e mai e momacciai e momacciai, momacciai de colle taglie. Mare mai e sosce mai, mare mai e sosce mai, mare mai e sosce mai. Carolina di Ruocco, la mia amante. Che uppidello, proprio così. Proprio con queste parole, Carolina di Ruocco, la mia amante, che trovatasi con me nella banda, morì nella settimana scorsa sui monti di Tramonti. Disse così per proteggerla, per non farla fucilare. Ma lei, dopo che fucilarono lui, si presentò spontanea davanti ai gendarmi per farsi interrogare. Era stato 2 mesi con i briganti. Diceva: io so tutto, ma non voglio dir nulla. E sfido, mi sfido a farmi dire quello che ho in corpo. Presidenti, giudici, nessuna confessione mi strapperete, perché dalla bocca mia parole non ne usciranno. Sono meretrice, ma sono pure brigantessa. Carolina vendeva latte e ricotte. Il suo innamorato, Pippitello, la volle portare con sé in montagna. Ma altro incarico che servire i briganti nelle varie incursioni lei non conobbe. Pippitello era molto geloso di Carolina e la sua banda si divise proprio perché si diceva che nella banda non ci dovevano essere donne, perché i briganti si azzuffavano, si menavano. E loro due invece sempre uniti stavano, vagabondi nella foresta. La sera, lontani dalla banda dei briganti, si addormentavano abbracciati. Carolina di Ruocco aveva solo 15 anni, gli occhi azzurri e un colorito rubicondo da offrire al suo innamorato. E lui per lei nessun pensiero losco, solo un idillio soave, puro, gentile, perché i banditi pure hanno un cuore quando si innamorano. E lei sua sposa doveva diventare. E più ostacoli c'erano, e più i due si avvicinavano. E poi però una notte, in quel bosco che sempre violenza aveva conosciuto, la fibra rigogliosa di Pippitello, dei suoi 20 anni, si ridestò. E dopo tante notti candide e innocenti, venne la prima notte di nozze, nell'aria profumata della montagna, sopra un talamo di ginestre, al cospetto del cielo stellato. E questo fu l'unico atto, l'ultimo atto illegale di Pippitello, Gennaro Petruccio. Che sta bocca e o sospiro vasa che sta bocca. La luna t'accarezza sti male dolce, i fremme so gelosa de sto suono. I fremme so gelosa de sto suono. ruba i cori e li incatena. Nurretta ruba i cori e li incatena. Tu ne hai voluto far pazzio sentimento, mo canto amore e canto sto dormiento. Mo canto amore e canto sto dormiento. Quando l'hanno arrestata, Carolina Di Ruocco, contadina della banda di Giuppitello, raccontarono che un ufficiale le disse: «Puoi essere pure la Madonna, ma ti devi spogliare pure tu e uscire nuda come i maschi. Mica vorrai nascondere quello che hai rubato in mezzo alle vesti». Ma sempre a dire che i briganti nascondono i bottini e le brigantesse sanno dove stanno nascosti. Ma di tutti i tesori di Giuppitello, ori, collane, denaro, non si è mai trovato traccia. Quando stava per essere fucilato, quel brigante incontrò il prete, che sperava di salvare quell'anima di bandito votata al diavolo. Ma Giuppite, tutti sanno che hai nascosto un tesoro. E dimmi dove sta, no? Che io dopo lo darò alla tua famiglia. Giuppite, pensaci, no? Ci ho già pensato. Voi conoscete quella campagna? Sì. Voi conoscete quei filari d'ulivo? Sì. E voi cominciate a contare, prevete. Uno, due, tre, quattro. Calmo, che la fretta di farsi fucilare mica ce l'aveva. Ma sì, ma fino a che numero? Che lui invece la fretta ce l'aveva e come, di andare in mezzo ai filari. Dovete avere pazienza, prevete. Contate, e poi in fondo scavate. A fucilazione avvenuta, a scavare furono mandati 10 soldati insieme a quel prevete. Tanti ulivi, tanti passi a destra, tanti passi a sinistra, 1, 2, 3 e 4. E fecero la buca. E trovarono la somma di 19.800 lire. Ma lo Stato dissero che sì, avevano scavato sotto l'ulivo, ma lì non c'era niente. Forse che si erano sbagliati a contare, o Giuppitello li aveva presi in giro. Fatto sta che la somma non arrivò mai nelle mani della giustizia. Perché il prevete non si fece più vedere. Pare che sia andato però a benedire un altro villaggio. Altri briganti, altre spose. E poi di lui si è persa ogni traccia, per sempre. E allora a te questa storia, chi te l'ha detta? Ma uno che girava per il paese, che l'aveva sentita dire dal pastore, che gliel'aveva detta la comare. Thank you. 16 anni, Luisa Spina ha una spina nel cuore. Una spina nel ventre, spina nelle gambe. Spinose le brille montagne, irti i sentieri dell'Irpinia. Pungente l'amore, il suo abito da sposa. Spinoso il gelo della solitudine, l'abbraccio dell'aurora. Testimoni gli alberi dei boschi, le gocce della rugiada. Spina, Luisa Spina. Combatte la notte, affronta il buio, il fazzoletto sul viso, calcato in testa al cappello. Corre sulle montagne, si avventa, colpisce, galoppa su pianure, sentieri. Segue il brigante Mariano, la sua rosa, la sua spina. Alve, tramonti, il rincorrersi dei giorni, rosso sangue il vento nell'ora del giudizio. Spina, Luisa Spina. Spine i briganti che hanno ucciso Mariano. A lui hanno ucciso la vita, a Luisa hanno ucciso l'amore. Luisa si è affondato il pugnale nella carne, lacrime, capelli, ciglia, brandelli di cuore. Luisa Spina si è lacerata per dare forza ai sogni. Ha gridato il nome di sua madre, di suo padre, dei fratelli. Luisa Spina non c'è più. Ha tagliato i petali. Ha scelto le spine. Luisa Spina era una brigantessa dai lunghi capelli, unghie nere e orgoglio. Irrorava l'aria della sua rabbia. Adesso un fantasma inquieto, Luisa Spina. Combatte ai bordi del mondo, aizzando i briganti. Coraggio, uomini! Siate le mie braccia, siate le mie armi, siate il mio furore, siate spine avvelenate contro l'illusione delle stelle. Qui termina la storia di Luisa Spina. Non si può sapere se il tempo curerà ogni vecchia ferita e né se la sua anima fosse pentita. Ma ognuno di voi perdoni chi forse è sembrato cattivo per motivi buoni. Su delle danze, la brigantessa Spina non riesce a ricordare i tramonti, non riesce a ricordare i baci. Vola, vola qui intorno, sussurra piano, non riesce a ricordare la paura. È Luisa, la brigantessa della sera. Le storie hanno un tale potere, non ci chiedono niente, ma in cambio vogliono solo essere ascoltate. E se queste che avete sentito vi sono sembrate violente? Ma la violenza è sempre cosa da condannare. E ricordate che di strade tortuose è fatta la vita. Le hanno chiamate brigantesse, ma prima di tutto sono state donne di un popolo contadino che non sapeva neanche chi fossero il re Ferdinando di Napoli o re Vittorio Emanuele. Per loro non c'era una grande differenza. Nessuna di queste donne sapeva che stava giocando con la storia. Centinaia di donne che non avevano paura di una vita rischiosa. Una vita da poveraccia, che più poveraccia di così non poteva essere. Pensiamo a Michelina De Cesare, che partorisce sul letto di foglie alla presenza di tutta la banda. A Filomena Pennacchio, sbattuta da un casolare all'altro per difendere la gravidanza. A Maria Oliverio, Cicilla, stuprata, fotografata, ferita e nuda, che subisce tutte le umiliazioni possibili. A Giuseppina Vitale, venduta dal padre in cambio di un cavallo. A Carmelina Di Pierro, che costituì da sola la prima banda di brigantesse. A Maria Teresa di Genova, arrestata perché scoperta a lavare la biancheria dei briganti, tenne testa ai gendarmi e per questo fu fucilata nella pubblica piazza. Nessuna al mondo e in nessuna epoca nasce impavida, eroica o sanguinaria, ma poi ci diventa per come vive. Non esiste un tipo solo di donna, non si nasce donna, ci si diventa. E le donne imparano una dall'altra, facendo tanta fatica. Belle le buone, belle le cattive, belle le coraggiose e le paurose. E belle tutte le altre. Belle nella debolezza tutta femminile e belle nell'orgoglio. Forti nella sofferenza e nella sopportazione della fatica e delle privazioni. Dignitose nelle difficoltà che incontrano ogni giro di luna. Quando tutte sentiamo il bisogno di riposarci e lavarci e non di scappare dileguandoci a cavallo. Noi dedichiamo questa storia a tutte le donne dal cuore semplice o a quelle ambiziose. A quelle che hanno voluto cercare di arrivare in cima o soltanto a domani. Alle donne tempestose e alle donne pacate. Alle più sorridenti o a quelle più tristi. A quelle che ballano, urlano, ridono e cantano. A tutte. A tutte. A tutte. A tutte. A tutte. Una mattina appena alzate. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Una mattina appena alzate, i risaia mi tocca andare, e tra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, e tra gli insetti e le zanzare, duro lavor ci tocca fa, il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare. Cara mamma, che tormento, oh, che tormento, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, oh cara mamma, oh, che tormento, io ti invoco ogni domani, ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno e tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno e tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, ma verrà il giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, ma verrà il giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. L'ensemble Sonate, Roberta Bartoletti, Anna Maria Giordano, Alessandra Cicogna, Paolo Margutta, Claudia Mineide, Marina Leone. Con Claudia Mineide e Marina Leone della compagnia Narro e Canto per presentare lo spettacolo Brigantesse. Ben trovate. Grazie, buongiorno, grazie. Buongiorno. Raccontiamo di cosa si tratta, cos'è questo lavoro? Questo è un lavoro che nasce da una curiosità così spontanea. Il fenomeno del brigantaggio non era proprio tra le mie scelte iniziali. E poi però scovando e cercando e leggendo mi sono resa conto che di questa storia si sapessero molte cose, molti eventi riguardanti il mondo maschile. E le donne, dico, in tutta questa epoca, dico, che hanno fatto? E quindi da lì è partita una ricerca enorme. ho letto tantissime cose e questo mondo femminile del brigantaggio mi è sembrato enormemente interessante, prima di tutto perché direi quasi attuale, quasi un mondo di femministe ante litteram, perché nell'Ottocento donne che lasciavano la loro vita tradizionale, i loro abiti, i loro costumi per rivolgersi ad una battaglia, ad una guerra così maschile, si può dire, mi hanno entusiasmato. E poi però, conoscendo la loro storia, mi sono resa conto delle loro sofferenze, della loro vita, come è stata trattata, donne che hanno subito violenze, donne che non sono state neanche riconosciute per quel ruolo magnifico che invece avevano avuto, tanto proprio da metterle in disparte, sia fisicamente, quando riuscivano a tornare vive da queste guerre, da queste battaglie, e sia poi proprio socialmente, nella comunità, delle loro famiglie, dei loro paesi. Erano donne che oramai avevano perso tutto, quindi questa storia mi è sembrata attuale, mi è sembrata interessante, mi è sembrata utile farla conoscere. A quali testi hai fatto riferimento? Diversi, che non sono stati facili da rimediare, perché anche nelle librerie romane più fornite materiale sul brigantaggio ce n'è sempre tanto maschile, ma femminile no. Quindi io ho un'amica che ha una magnifica libreria a Napoli, la libreria Neapolis, che si è specializzata proprio in questo tipo di testi popolari, musicali. E quindi sono andata a trovarlo, ho passato 2 giorni dentro a questa libreria insieme ad Anna Maria e con lei abbiamo tirato fuori tante cose. Quelli che ho consultato sono per esempio uno magnifico che si chiama Le Brigantesse di Franca Maria Trapani, poi Cicilla di Peppino Curcio e poi di Valentino Romano, Brigantesse, e poi Michelina di Cesare, Guerrigliera per amore, di Fulvio d'Amore, e poi addirittura un romanzo di Pino Aprile, La Brigante Bambina, e poi un magnifico album fotografico, Per Forza e per Amore, Brigantesse di l'Italia Postunitaria, di Simona De Luna, e Maria Cutrufelli, La Briganta. Purtroppo La Briganta. Il libro della Cutrufelli è fuori produzione per adesso, quindi speriamo di incontrarla prima o poi, che ci faccia avere uno di questi tesoretti in mano. E poi altre piccole cose, poi insomma ho cercato un po' dovunque, Le Brigantesse di Franco Fresi, Andrea Del Monte che ha scritto un'altra cosa, pure Brigantesse, che è un libricino particolare, questo c'è anche un CD allegato, e sono brigantesse raccontate da persone comuni come me che si sono interessate, quindi ognuno ci ha messo dentro qualcosa, chi ha scritto una poesia, chi una canzone. Sì, poi la storia più in generale, no? Questo filone del brigantaggio femminile lo avviciniamo anche a una storia del brigantaggio che per la maggior parte delle opere è stata scritta dai vincitori, no? Quindi quella parte del brigantaggio maschile e femminile che in qualche modo fa risaltare anche un desiderio magari illusorio di riscatto sociale e che non viene tanto preso in considerazione. Infatti un testo anche che abbiamo letto è la storia del brigantaggio meridionale, scritto da Aldo De Iago del Partito Comunista, cronaca inedita dell'Unità d'Italia, scritto nel 1950, che già riprendendo Gramsci cercava di ragionare un po' su quello che è stato anche il fenomeno del brigantaggio, anche se noi, come ha detto Marina, poi quello che abbiamo voluto portare è stata la storia personale di queste donne che attraverso il brigantaggio hanno tentato di cambiare la loro vita e di viverla in libertà pari agli uomini. Erano donne che erano rispettate nelle bande dei briganti, spesso hanno formato bande dei briganti e le hanno capeggiata, quindi in questa storia della posizione politica o meno, insomma, hanno trovato una possibilità di fargli parlare in prima persona come protagoniste. Lo spettacolo prevede anche una parte musicale, ci raccontate come lo avete articolato? Il gruppo di ensemble sonate è costituito da Roberta Bartoletti, Anna Maria Giordano, Alessandra Cicogna, Paolo Margutta. Sono amici. Roberta Bartoletti per me è una persona deliziosa, una musicista fantastica, è una ideatrice, una tra le pochissime donne che sanno fischiare a livello musicale. E io l'ho sempre tenuta nel cuore Roberta Bartoletti, perché ascoltandola mi ha sempre fatto tanto piacere. E quindi quando ho cercato un supporto supporto musicale da aggiungere a questo mio racconto, era necessario trovare dei musicisti che avessero un repertorio proprio come il loro, di musiche popolari, non quelle più note, ma quelle più ricercate e in più adattate, arrangiate da loro. Paolo Margutta è laureato al Conservatorio Musicale, sono persone che hanno studiato tutta la vita musica e di quel genere, e quindi per me è stata un'aggiunta molto preziosa, insomma, avere loro a fianco. Lo spettacolo ha avuto diverse repliche, e per saperne di più sull'attività della compagnia e sullo spettacolo ci sono dei riferimenti internet? No, pubblichiamo volta per volta queste iniziative che facciamo su Facebook e attraverso una rete poi di conoscenze, di amici. 12 repliche, ieri sera era la 12ª e la sera precedente eravamo a Idri, al Museo del Brigantaggio. Tutte le volte abbiamo avuto un gran pubblico, felice di ascoltare questa storia, curioso di saperne di più, e infatti ogni serata è stato poi un appiglio per andare altrove. In ogni luogo dove ci siamo manifestati abbiamo trovato chi ci ha detto: e allora venite a raccontarla anche in questa scuola, e allora venite anche qui al museo, per esempio. Sta diventando una rete che si allarga e ci fa molto molto piacere, sono molto orgogliosa di questo frutto. Quindi le notizie sulle vostre pagine personali Facebook? Sì, la compagnia Narro e Canto non è costituita sempre dalle stesse persone. Diciamo che io ogni tanto ho questo guizzo di scrivere storie, e secondo poi il genere di storia che amo raccontare in quel momento, che mi incuriosisce, trovo anche le persone adatte a collaborare con me. Ho raccontato l'anno scorso e rifaremo nei prossimi mesi uno spettacolo che si chiama Qualcosa che ho letto, ed è la storia di Laura Betti, perché 2 anni fa di Pasolini se ne è parlato proprio tanto, tanto, tanto, e però di Laura Betti, che è stata la sua compagna non carnale, come la chiamava lui, e non se ne è parlato per niente, mai, da nessuna parte. E io, quando le storie non sono raccontate, ma solleticano la curiosità, mi si aprono spiragli enormi. E quindi in quell'occasione c'era con me tutta un'altra compagnia, c'erano altri collaboratori, c'erano altri musicisti, c'era un altro attore che raccontava con me questa vicenda. Lo spettacolo Brigantesse. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Mineide e Marina Leone della compagnia Narro e Canto. A presto! Grazie a voi, a presto. Sì, arrivederci. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Pier Sandra Di Matteo, direttrice artistica della 19ª edizione di Shore Theatre a Roma dal 5 al 15 settembre 2024, ben trovata! Ciao a tutti e a tutte! Spieghiamo cos'è questo festival. Shore Theatre è un festival dedicato alla creazione contemporanea che abita la città di Roma, diversi luoghi della città, per una durata di circa 2 settimane, attraversando diversi linguaggi, dalla danza al teatro alla performance, ma c'è tutto un programma parallelo anche di incontri, conversazioni, presentazioni di libri, incontri più teorici, e soprattutto c'è una parte che per noi è molto importante, che è quella delle pratiche, che chiamiamo reciprocity, dove è possibile scambiare pratiche e lavorare la trasmissione di conoscenze con le artiste che sono presenti al festival, che presentano i loro spettacoli. Come si caratterizza quest'anno? Quest'anno abbiamo scelto un titolo un po' complesso, un po' difficile da pronunciare in italiano, si chiama Viscous Porosity, e in qualche modo ripercorre una tensione che abbiamo messo in campo già negli anni precedenti, cioè di interrogare le relazioni, lo spazio tra le cose, tra i corpi, e per corpi intendiamo i corpi umani e più domani, quindi materie organiche e inorganiche, i corpi che danzano in relazione con gli ambienti, gli spazi, le densità atmosferiche dentro le quali scrivono delle traiettorie. Quindi quest'anno vogliamo in qualche modo guardare e ripensare il concetto di fluidità, provando a contraddirlo, interrogandoci su appunto le relazioni appiccicose, addensate, agglutinate, quindi su quella tendenza più allo stare, a far emergere punti di criticità, punti di densità, che comunque fanno parte anche delle dinamiche di relazione che ci caratterizzano. Com'è stata la scelta artistica? Si è molto concentrata su queste questioni che ho appena toccato, e ci muoviamo in un panorama internazionale molto stratificato. molti lavori riflettono sulla corporeità, sull'articolazione del tempo, ma forse c'è una chiave più di altre che contraddistingue diversi lavori di artisti francesi, ruandesi, tedeschi, è in qualche modo la possibilità che lo spettatore ha di fare un'esperienza perturbante tra ciò che è percepito e ciò che è immaginato. Le esperienze sceniche avremo modo di esperire in qualche modo chiedono un ingaggio e una partecipazione attiva dello spettatore proprio sul piano del sensibile: che cosa sento, che cosa percepisco, che cosa immagino, e appunto la porosità tra ciò che immagino e ciò che effettivamente sto fisicamente percependo. Nel complesso, qual è la mole di appuntamenti? Penso che siano più di 50 eventi nell'arco di questi 10 giorni, dal 10 al 15, in diversi luoghi della città. C'è un elemento che quest'anno più di altri ha un peso importante nella configurazione urbana del festival. Il festival ha luogo principalmente alla veranda del mattatoio, ma ci piace sempre pensare che gli eventi performativi possano suggerire delle forme di riscrittura degli spazi, e quindi siamo al Teatro di Documenti, al Teatro Cometa Off, al Teatro Basilica, ma appunto l'arteria, l'asse di riferimento per questa edizione è il Tevere. Dal Tevere iniziamo con una festa al Tagultù e finiamo al Parco Tevere Marconi con lo spettacolo della compagnia catalana Il Conde di Torrefiel, a cui dedichiamo un poco speciale con molti lavori che saranno presenti per tutta la durata del festival. Come sarà dislocato nei diversi spazi e nei diversi orari? Per quanto riguarda gli orari, il festival inizia intorno al tardo pomeriggio, dalle 18 in avanti, c'è tutta una fascia pomeridiana di attività legate allo scambio di saperi, talk e incontri più o meno teorici, anche se durante le mattine pomeriggio sarà possibile appunto partecipare a masterclass e seminari e laboratori, ma la parte aperta al pubblico parte dalle 18 fino alle 2 di sera. La seconda parte della serata è molto dedicata alla musica, il festival è punteggiato in maniera importante di concerti e di artiste internazionali che lavorano proprio sulla sperimentazione sonora, e quest'anno i piccoli teatri che punteggiano la città sono un po' un motivo ritornante, e siamo molto fiere della collaborazione col Teatro di Documenti, che questo piccolo teatro cunicolare scavato sotto il Monte Testaccio, che è un piccolo gioiello realizzato dall'architetto, che è Luciano Damiani, che ha creato questo spazio teatrale anomalo, nel senso che non c'è un fronte per gli spettatori, non c'è la frontalità garantita, ma dove presenteremo il lavoro di una coreografa canadese straordinaria che lavora proprio sull'intermittenza della visione e della percezione, che è Dana Michel. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Il sito del festival, dove trovate tutte le informazioni anche per l'accessibilità, persone con disabilità che hanno voglia di partecipare al festival, perché questo è per noi molto importante, www.shorttheater.org. 19ª edizione di Shirt Theater dal titolo Viscous Porosity a Roma dal 5 al 15 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Piersandra Di Matteo. A presto! Grazie mille, vi aspettiamo! Con Federica Mancini, direttrice artistica della manifestazione teatrale e culturale Sogni Viandanti a Roma, municipio 14, dal 31 agosto al 26 settembre 2024. Ben trovata. Buongiorno, ciao, grazie. Cos'è questo progetto? È un progetto leggero di riconnessione attraverso un mood onirico della cittadinanza. È un progetto muto, senza parole, le uniche voci sono di quanti normalmente non ne hanno, e parte con un workshop di Renato Curci, che fonde appunto il mimo all'animazione, al teatro di figura, quindi l'animazione corporea. Procede poi con incursioni di marionette corporee a dimensione umana e lambe prevalentemente. Poi ha una serie di progetti di fasi legate appunto a questo discorso dei volti del territorio, quella cosa che dicevo prima, che è un progetto muto. E durante gli incontri l'artista Katia Reichardt farà dei ritratti ai passanti in cambio dei sogni di ognuno. Questi poi, in collaborazione con l'ASL RM1, verranno esposti in una mostra presso il centro Sanifo della Santa Maria della Pietà, e questi ritratti parlanti potranno appunto essere ascoltati attraverso dei QR code con delle registrazioni fatte appunto dall'associazione Vengo da Prima Valle, con delle interviste. Tutto questo un po' per dire che i sogni, le aspettative sono un denominatore comune umano, indipendentemente dalle origini, le condizioni, le situazioni socioculturali. E la mostra, appunto, l'esposizione, non a caso si chiama I volti del municipio. Nel complesso, quanti sono gli appuntamenti, gli eventi? Gli eventi sono 19, perché appunto sono composti in parte da attività performative, incursioni, spettacoli e attività formative, laboratori per tutte le età, dai bambini agli adulti, e come al solito ha un carattere intergenerazionale di partecipazione attiva, diretta della cittadinanza, che viene coinvolta anche nella comunicazione del progetto attraverso un laboratorio artistico che ad esempio faremo con la libreria Il Coniglio Volante, il 2 presso i lotti del municipio, i lotti ATER delle case popolari. È un progetto appunto viandante e si snoda tra la pista ciclopedonale nel tratto che va da Montemario al Gemelli, presso appunto i cortili delle case popolari, in particolare il 5° lotto adiacente a via del Barbarigo, il teatro La Casetta e il centro Sanifo della ASL RM1. Com'è stata la scelta artistica? Questa è una cosa che ho veramente a cuore. Praticamente la caratteristica del progetto è nell'aver, una parola un po' strana, comunque ricapitalizzato quanto è stato prodotto negli anni nei vari progetti, producendo una quantità notevole di materiali, di teatrini lambe-lambe, di marionette corporee a dimensione umana. E ora, tra il collettivo di artisti accanto ai veterani, vi sono dei giovani che, formati appunto in questi corsi, sono adesso immessi nel mondo lavorativo dello spettacolo. Quindi è un collettivo composto sia da artisti che precedentemente hanno svolto un'attività di specializzazione, di formazione con gli altri progetti, che da giovani. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? C'è la pagina del Teatro La Casetta, la pagina Facebook, chiaramente tutto è sul portale di Cultura Roma, poi c'è il sito www.canterietolospettacolo.it e vi aspettiamo. C'è anche tutte le proposte con le marionette, hanno la musica dal vivo che accompagna nel percorso in itinere i partecipanti, e sono strumenti ad arco, che è una cosa molto delicata. La manifestazione teatrale e culturale Sogni Viandanti a Roma, municipio 14, dal 31 agosto al 26 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Federica Mancini. A presto! Ciao, a presto, grazie! Con Chiara Crupi, una delle curatrici della 18ª edizione del Festival Anomalie, la sperimentazione in periferia, a Roma, Parco delle Canapiglie e a Largo Mengaroni, dal 31 agosto al 15 settembre 2024. Ben trovata! Ben trovato Federico e i fedeli ascoltatori, grazie. Grazie perché ci date sempre un grande spazio e vi ringraziamo tantissimo. Raccontiamo cos'è questo progetto. Anomalie giunge quest'anno alla 18ª edizione, per cui diventa di maggiore età, e lo fa partendo dalle periferie e restando in periferia. Quest'anno, appunto, dopo aver attraversato i monti tiburtini e i parchi del Tiburtino, della Rustica, fino appunto alle torri di Roma Est, che sono state il nostro luogo, quest'anno rimaniamo a Parco delle Canapiglie, a Torre Maura, nelle prime giornate del 31 agosto, 6, 7, 8 settembre, e poi ci spostiamo oltre la Col d'Anulare quest'anno. Quindi 13, 14 e 15 settembre saremo a Largo Mengaroni, in collaborazione con il Cubo Libro, che è una biblioteca ma anche un centro culturale all'interno, proprio nel cuore di Torbella Monaca. Andiamo a proporre una trentina di spettacoli, a ingresso gratuito per tutti gli abitanti del municipio Sesto, del municipio delle Torri, quindi mantenendo quello che è la caratteristica dell'accessibilità. Appunto, proponiamo 31 spettacoli di rigorosamente nuovo circo contemporaneo, quindi circo senza animali. Com'è stata la scelta artistica? È caratterizzata da anni, ma quest'anno proprio abbiamo avuto un'attenzione particolare. Quando dico abbiamo, parlo di me, che sono Chiara Crupi, e Nicola Danesi De Luca, quelle persone che più di altri, perché poi il Collettivo Underground è un collettivo fatto di anime pensanti e pulsanti, fortunatamente, quindi siamo in tanti poi a organizzare il festival. Comunque la scelta, appunto, è dettata proprio dal criterio di andare a prediligere quegli spettacoli che non hanno le parole e che sono quindi non solo senza parole ma anche adatti a tutto il pubblico. Cerchiamo proprio di portare avanti questa scelta e di diffonderla nell'ottica proprio del fatto che gli spettacoli possano essere da tutti, quindi senza distinzioni culturali, etniche o ancora di genere o di età, possono essere fruibili. E quindi andiamo proprio a scegliere quelle che sono le opere ad alto contenuto emotivo, emozionale, ci basiamo sulla suggestione. Quindi anche quest'anno avremo tanti clown, addirittura abbiamo un clown che viene dal Giappone, che porterà dei numeri nuovi per il nostro paese il 13 settembre a Largo Mengaroni, ma anche tanto fuoco. Avremo il primo spettacolo di circo con gli animali di fuoco il 6 settembre al Parco delle Canapiglie, e ancora i colibrismi, ma dei migliori, nel senso che proprio parliamo di tecniche aeree del circo sottovuoto o ancora delle tecniche aeree della compagnia Trazza che viene dalla Francia. Avremo le Conica, il collettivo Conica, che chiude Anomalie con Mano a Mano e Clowneria Acrobatica. Quindi ci piace anche parlare del circo, perché il circo è quello che appunto arriva a tutte e a tutti, e soprattutto ci si rende conto che col circo si può trasformare l'impossibile in possibile, con l'allenamento, con la disciplina, con la passione. E quindi l'arte circense ci piace per questo, andiamo a ridisegnare le periferie con questi spettacoli che suscitano meraviglia. E lo facciamo ovviamente gratuitamente per tutti quelli che abitano lì. Anomalie, oltre a proporre appunto tanti spettacoli in questi due fine settimana, propone anche 5 laboratori, sempre gratuiti, che vanno proprio dai più piccoli, dai 3 anni, fino a Io per 65, collaboratore di canzone popolare romanesca tenuto da Alessandra Magrini. Quindi c'è un'attenzione proprio anche all'inserirsi all'interno di questi territori, con tante proposte che possano essere anche formative in qualche modo. Comunque tutto il programma è sul sito anomaliecircuspest.net e sul nostro sito del Collettivo Underground. Il festival sarà i fine settimana, e poi come saranno articolate le giornate? Il festival parte il 31 agosto, sabato, con la serata del risuono urbano, che è una serata a cui noi teniamo molto, perché è organizzata dai giovanissimi del Collettivo Underground, quindi che si sono uniti alla crew di street art, grafici, videomaker 610, per cui praticamente questi ragazzi hanno curato non solo l'estetica del festival dello scorso anno, ma anche di quest'anno, creando delle scenografie nelle quali poi il festival si muove benissimo. Quindi questa è la prima serata di suono urbano, parliamo di pop, di rap, di banchi di tatuaggi e di tanta street art che insieme al circo è la protagonista del festival Anomalie. Infatti appunto Mino Junior e Leon Ferreira poi cureranno il laboratorio di street art tutti i giorni all'interno sia del Parco delle Canapiglie che a Largo Mengaroni dalle 18 alle 19, laboratorio di street art aperto a tutti i ragazzi e le ragazze del quartiere, a chi vuole partecipare. Si dipinge su formati che creeremo appositamente. Oltre al 31 agosto avremo il 6, il 7 e l'8 settembre e il 13, 14 e 15, che sono le giornate proprio che culminano con tantissimi spettacoli di circo sia nel Parco delle Canapiglie che a Largo Mengaroni, sotto questo chapiteau di luci che noi andremo ad allestire tutti i giorni. E gli spettacoli sono dai 3 ai 6 al giorno, e ovviamente il sabato e la domenica si parte prima, si parte dalle 15 e praticamente si susseguono fino a tarda sera. 18ª edizione del Festival Anomalie, la sperimentazione in periferia a Roma, Parco delle Canapiglie e Largo Mengaroni dal 31 agosto al 15 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Chiara Grupi. A presto! Grazie, a presto! Con Lorenzo Gardino per presentare la prima edizione dell'Herp Fest a Roma, Villa Gordiani, dal 5 al 29 settembre 2024. Ben trovato. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Spieghiamo cos'è. Herp Fest è un'iniziativa che nasce da una volontà precisa, quella di collaborare con degli amici, sostanzialmente delle compagnie circensi e di Svago, che hanno lavorato con me ad altre iniziative per portare quello che è il nuovo circo, la giocoleria e tanto altro vicino alle strutture ERP a largo delle Terme Gordiane. È un'iniziativa che nasce qualche mese fa grazie appunto all'impegno di molte realtà e molte persone che hanno voluto mettersi in gioco. Quanti sono gli appuntamenti in programma? Sono oltre 20. Ogni weekend sarà segnato da due spettacoli di circo, sia sabato che domenica, e dagli appuntamenti con i laboratori per le nuove generazioni tutte le domeniche pomeriggio. Quindi ecco, ci sarà da divertirsi per tutti e in realtà di tutte le età. Come sarà strutturato? La struttura è varia e variegata, nel senso che per portare una diversità scenica, una diversità artistica, abbiamo deciso di iniziare facendo capire chi siamo e cosa facciamo attraverso una veloparata che si terrà il 5 settembre a largo delle Terme Gordiani. E la veloparata è una cosa particolare, quindi è in movimento, è uno spettacolo circense in movimento, e distribuiremo appunto il nostro materiale informativo e spiegheremo quello che faremo. Gli appuntamenti invece saranno totalmente variegati, non c'è una scaletta secondo del tema artistico presentato, ma si avvicenderanno artisti di ogni genere provenienti da ogni parte d'Italia, in cui faranno appunto dal nuovo circo ai palicinesi, alla giocoleria e tanto altro, mentre i laboratori saranno prettamente per le nuove generazioni, quindi per i giovani, per i bambini, e anche per quanto riguarda i laboratori saranno totalmente variegati, con il tema ovviamente centrale del circo, quindi come spiegare e far imparare tematiche circensi ai bambini. Com'è stata la scelta artistica? La scelta artistica è stata anche una scelta molto personale, nel senso che la direzione artistica è partita da quello che volevamo trasmettere e il luogo in cui andavamo a rappresentarlo, e abbiamo costituito questo, diciamo, cast, questo panorama di artisti tra quelli con cui abbiamo collaborato, in grado di trasmettere quello che volevamo fare e dove lo volevamo fare. Quindi è una scelta più che artistica, è una scelta umana. Ci parli anche un po' della realtà del GD Group? GD Group è una realtà piccola e giovane che ha l'obiettivo di portare, di far fruttare quelle che sono le conoscenze artistiche di tutte le sue componenti, di tutte le persone che la compongono, farle fruttare e metterle tutte a fattor comune, visto che vengono tutte da posti differenti, e riuscire in questo modo ad avere sempre un panorama artistico estremamente variegato, che arriva non solo dall'Italia ma anche dal resto d'Europa, e in grado quindi di avere una produzione artistica molto corposa e di riuscire quindi ad essere in più parti di Roma anche nello stesso tempo, e permettere quindi a tutti di fruire del contenuto in maniera comoda e semplice. Gli spazi e gli orari quali saranno? Gli orari saranno sempre gli stessi, quindi gli appuntamenti saranno sempre alle 17.30 alle 18.30 al weekend, e saremo a Largo delle Terme Gordiane, quindi a fianco a Villa Gordiani. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Il programma abbiamo deciso di consegnarlo solo nella zona, perché è totalmente un progetto site specific, quindi è totalmente pensato, gli spettacoli vengono rimodulati proprio per il posto dove siamo, c'è una grande il luogo è una grande componente di questa manifestazione, quindi il materiale informativo sarà tutto trasmesso in loco ai residenti e a chi abita nelle zone limitrofe e al desk posto a largo delle Terme Gordiane. Quindi ritorniamo indietro per questa manifestazione, facciamo tutto tu per tu. Prima edizione di Herp Fest a Roma, Villa Gordiani, dal 5 al 29 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Gardino di GD Group. A presto! Grazie mille, a presto. Con il fotografo Dino Ignani per presentare la sua mostra 80s Dark Room al Museo di Roma in Trastevere dall'11 settembre al 10 novembre 2024. Ben trovato. Grazie, e volevo aggiungere che l'inaugurazione comunque sarà dalle 18, ci sarà un DJ set, quindi la chiusura della mostra, che era prevista per le 21, è posticipata alle 23:30, quindi gli ospiti si preparino. Raccontiamo un po' di questa esposizione, di cosa si tratta? È il frutto di un mio lavoro che ho eseguito dal 1982 al 1985 circa, che consisteva nella mia frequentazione di un universo dark, un movimento dark, nelle discoteche romane. Io li seguivo e mettevo un set fotografico, quindi non facevo foto al volo o paparazzate, uso sto termine, felliniano, l'ha inventato Fellini. E quindi allestivo un set fotografico, macchina fotografica su cavalletto, ombrello da fotografia con luce continua da 1000 watt, e lì avevo questo mini studio fotografico e facevo questi ritratti. Ovviamente poi, continuando a frequentare, ci sono state anche delle performance, principalmente al Piper, e lì facevo delle foto con la macchina a mano, e quindi foto di avvenimento, insomma, non ritratto specifico come avevo iniziato, come continuavo a fare, insomma. Com'era nata l'idea? L'idea era nata perché tra l'80 e l'81 io frequentavo tutte le sere una vineria che stava a Trastevere, una vietta accanto a Piazza Belli, che si chiamava Fidelio, gestita da Walter, un tedesco che purtroppo non è più tra noi. E lì c'era pure un tavolo comune, quindi si stava insieme anche dei sconosciuti momentanei, perché dopo un paio di bicchieri si faceva amicizia con chiunque. A un certo punto hanno cominciato a frequentare il Fidelio un gruppo di dark, 6-7 persone. Ovviamente io da fotografo pensavo già di fare il ritrattista a quei tempi, poi ho continuato, sono fotografo ritrattista. E mi sono incuriosito, abbiamo cominciato a socializzare. Era per me una novità, perché io venivo dai movimenti politici, collettivi, dove insomma c'era tutto un altro modo di porsi, il Vera Tolfa, eccetera. Vedere questa estetica così affascinante mi colpiva, sia umanamente sia come fotografo. E così ho chiesto informazioni, dove si incontravano, e ho cominciato a seguire nelle loro discoteche. La discoteca di riferimento è stata il Blackout, però poi alcune discoteche romane hanno visto, si usciva dagli anni di piombo e quindi la vita notturna era un po' limitata. Allora hanno capito che c'era questo nucleo di persone che amava vivere la notte, e quindi hanno cominciato a rotazione anche altre discoteche a fare la serata dark. Più o meno, ecco, quanti luoghi erano di riferimento? Il martedì c'era il Supersonic, il mercoledì l'Olimpo, il giovedì l'Angelo Azzurro, che era un locale prettamente gay, il venerdì ovviamente il Blackout, il sabato il Luona Club sulla Cassia, e la domenica si finiva in bellezza al Piper, dove appunto il più delle volte venivano allestite delle performance gestite da un gruppo, 3-4 persone, si chiamava Art Production. Gli animatori erano Luciano Parisi, Giorgio Gigliotti, Damien, che è bravissimo scenografo, che purtroppo non è più tra noi, è cascato proprio allestendo una scena in un teatro. Quanti ritratti hai messo insieme? Il progetto comprende circa 450 immagini, per lo più sono in bianco e nero. Poi, andando avanti, siccome sviluppavo e stampavo da solo in casa, quando era possibile, insomma, poi non ce la facevo più, mi rimaneva gravoso stampare, e allora a quel punto sono passato a usare il supporto, il rullo in diapositiva, pellicola diapositiva. Così veniva trattato dal laboratorio, anche brevissimamente, perché magari se avevi urgenza, dopo 2 ore ti restituivano il rullo sviluppato e addirittura messo nei telaini. Ci sono degli spazi internet per saperne di più? Io ho il mio sito www.dinoignani.net, dove ci sta una galleria anche dedicata, insomma, a questo lavoro sui dati. Però ci sono anche altre gallerie, ci sono 2 gallerie relative a 2 progetti, ai quali sto lavorando e continuano ad essere in progress. Sono i ritratti dei poeti, per lo più fatti nelle loro case quando è possibile, che è iniziato più o meno negli stessi anni di quando ho iniziato a fotografare i D'Arto, 81-82, e questo è in progress, e comprende una quantità enorme di ritratti. E poi c'è l'altra galleria che si chiama Ritratti, è dedicata principalmente agli artisti nei loro studi, però ci sono anche altri ritratti di attori, professori universitari, un premio Nobel, e anche per l'occasione della mostra abbiamo creato una pagina Facebook che si chiama 80s Dark Portraits di Nognani. La mostra 80s Dark Rome al Museo di Roma in Trastevere dall'11 settembre al 10 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al fotografo Dino Ignani. A presto! Grazie a voi, grazie a Onda Rossa, grazie a Federico. È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana. Sul teatro e anche sugli eventi culturali più in generale, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Settimana molto molto ricca di teatro, forse un po' tra le più ricche di questi mesi, sicuramente sarà, perché insomma è la seconda e ultima settimana di Short Theater, ha preso inizio il contemporaneo al Roma Europa Festival, e poi ci sono insomma altre attività sparse in giro per la città non meno interessanti, quindi andiamo subito in diretta, come si dice. Allora, direi che cominciamo con la rassegna del Teatro di Roma al Teatro Torlonia sotto un sipario di stelle a Villa Torlonia, appunto, che andrà avanti fino a fine mese e presenta Villa Torlonia, chiaramente parliamo di Via Nomentana, presenta questa settimana alcuni spettacoli da non sottovalutare. Allora, prima di tutto, il 10 di settembre, cioè questa sera, Lino Guanciale presenta Il Corvaccio di Morti, la famosa Spoon River romanesca dei sonetti di Graziano Graziani, che insomma abbiamo anche portato in radio, dico abbiamo perché la facevamo insieme prima, ovviamente insomma adesso la fa Lino Guanciale, voglio dire, tanto di cappello. E appunto il 10 settembre, questa sera, Il Corvaccio e i Morti. Seguirà poi l'11 settembre, mercoledì, la presa di Torino, letta e cantata da Peppe Servillo, da un racconto di Maurizio De Giovanni tratto dal libro Il Resto della Settimana, che racconta questa esilarante trasferta verso un'insperata vittoria del Napoli, appunto, a Torino. E mentre il 12 settembre ci sarà Ivan Talarico con la stand-up comedy e i nuovi linguaggi, il paradosso, l'esplorazione di canzoni, storielle, proclami con Vaniloqui, appunto, di Ivan Talarico il 12 settembre. Il 14 andiamo a vedere L'Apocalisse Tascabile di Niccolò Fettaraffa in scena insieme a Lorenzo Guerrieri, questo atto unico che ritrae la società decadente attraverso questo apostolo under 30, un angelo svogliato che annuncia la fine del mondo. Questo per quanto riguarda appunto Villa Torlonia sotto un sipario di stelle, quindi sono un po' di spettacoli misti da segnalare e li abbiamo segnalati. A Castel Sant'Angelo continua la rassegna estiva sotto l'angelo di Castello, il 13 settembre andremo a vedere in doppio orario alla sala della biblioteca lo spettacolo di danza Il Combattimento di Tancredi e Clorinda con la regia e visual di Fabio Kerstic, la coreografia è di Philip Kraft sulla musica omonima, che è Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi. Quindi saremo in scena appunto al Castel Sant'Angelo 13 settembre alle 19.30 e alle 21 per questo spettacolo di danza. Un grande personaggio della storia romana rivive in scena dall'11 al 13 settembre alla Sala Umberto, precisamente la Beatrice Cenci, vittima esemplare di una giustizia ingiusta, personaggio che alla fine del 1500 compì il patricidio più famoso della storia romana, con relativa condanna a morte, insomma, finì sul ponte Sant'Angelo col taglio della testa, e si pensa che tutti gli 11 settembre, era l'11 settembre quando appunto morì, tutti gli 11 settembre il suo fantasma torni a farsi vivo nei vicoli di Roma, e chissà che non lo faccia anche al Teatro Salumberto con la regia di Simone Martino. Procediamo ancora avanti con questa rassegna di spettacoli laboratori che dal 15 settembre, quindi insomma da questo fine settimana, partirà al Parco Archeologico di Ostia Antica, Desidera et Bis Astra, con appunto il teatro, i laboratori e appunto l'archeologia, fino al 27 ottobre, ingresso libero, ci saranno un po' di lavori. Segnalo appunto che il 15 settembre si parte con questa, con questo viaggio nella descrizione del cielo in Fenomeni, questo poema tradotto per la scena da Francesca Caprioli, musicato da Gianluca Misiti, con questa messa in scena tra specifiche in dialogo con la natura e i movimenti. Andremo poi insomma successivamente a vedere altri lavori. La stessa sera appunto sempre Francesca Caprioli presenterà Le Metamorfosi di Ovidio col progetto Forme, declinato in quattro stanze, insomma si entra all'interno del mito, e più avanti insomma andremo a vedere poi altri lavori sempre dedicati al mito, alla voce narrante di Fenomeni di Laura Mazzi, chiedo perdono per non averlo ricordato, quindi assolutamente da non perdere fino al 27 di ottobre al Parco Archeologico di Ostia Antica, Tra la Terra e il Cielo, Desidera et Bis Astra. E poi sempre a Ostia ci fermiamo, perché il 13 settembre, ma quindi due giorni prima, nell'Ostia Antica Festival, al Teatro Romano appunto, Antonio Rezzi e Flavio Mastella portano il loro Amistade, una contaminazione dei due artisti con la musica e le canzoni di Fabrizio De André, insomma da un'idea sfuggita dalle labbra di Dori Ghezzi con Antonio Rezza, e la presenza anche di Ivan Bellavista, insomma io ho visto, ma credo l'abbiamo visto entrambi, la scorsa stagione al Teatro Vascello, e da vedere questo incontro strano tra la musica e la parola, la musica di Fabrizio De André e la parola di Rezza Mastrella, il movimento chiaramente, insomma, e tante altre cose, insomma sarebbe lunga da spiegare adesso a Mastrella in due parole. Allora, poi Herbfest a Villa Gordiani, ancora andrà avanti fino al 29 settembre. Questa settimana andremo a vedere il collettivo Flan con gli spettacoli Flan, Varietà e Pacifer. Domenica 15 invece il duo Flosh che proporrà lo spettacolo No Stop. Ricordo che tutte le domeniche e alle ore 11 Elisa Turco Oliveri, attrice, istruttrice di yoga, porterà anche all'interno del mondo dell'Hatha Yoga, con appunto le tecniche dell'Hatha Yoga, l'attenzione alla precisione posturale delle asana e un'attenzione al respiro e alla, a quello che insomma chi sa qualcosa di yoga chiama pranayama. Quindi tutte le domeniche fino al 29 settembre troverete Elisa Turco Oliveri alle 11 per questa pratica a Villa Gordiani, che di zona ci faccia un pensiero. Continua Anomalie, arriva invece dall'Argentina a Tor Bella Monaca la compagnia A Tope con questo spettacolo public di circo, teatro e acrobatica, e proseguirà sempre lo stesso giorno, venerdì, e alle 19 e poi con Ide Ippei, la compagnia giapponese, sempre spettacolo di clown acrobatico, seguirà il collettivo Flan con Underdog Circus, un primo studio di questa varietà di circo, con la regia e la drammaturgia di Anton De Guglielmo, fa piacere ricordarlo, perché insomma abbiamo fatto insieme un sacco di cose in passato. Sabato 14 settembre, sempre a Tor Bella Monaca, Mano Viva, sempre teatro, circo, l'immagine, tu pubblichi, ma a partire dai 3 anni, quindi questa attenzione per i bambini, una circonferenza con il trio Ciurro invece seguirà, poi che coppia con Circo Sottovuoto, i clown spaventati panettieri, e insomma ci sono un sacco di appuntamenti, poi anche domenica 15 alcuni replicano, ci sarà Paccottiglia del Circo Pacco, insomma un bel po' di cose, ancora uno spettacolo spagnolo del collettivo Conica, La Punta del Mio Naso. Quindi sul sito di Anomalie, sito di Anomalie, oppure direttamente la pagina di Anomalie, oppure direttamente il sito di Arte in Connessione, dovremmo trovare un po' tutto quello che riguarda questa bellissima rassegna. Io segnalo ancora che ci sono, appunto, come avevo anticipato, ci sono poi i due festival principali, insomma, della città. E vado direttamente a parlare di Roma Europa Festival, che questa settimana l'avevamo già detto, presenta ancora stasera Rachid Ramdan col Ballet du Grand Théâtre di Ginevra con Outsider, grande coreografo Rachid Ramdan, porta 21 danzatrici e danzatori e 4 funamboli sul palco dell'Auditorium Parco della Musica ancora questa sera. Mentre invece mercoledì, domani, andremo a vedere sempre all'Auditorium Parco della Musica questo lavoro firmato da Alessandro Baricco, Giovanni Sollima, Enrico Melozzi, i 100 cellos, diciamo, Stefania Rocca, Valerio Solarino, Tucidide, Atene contro Melo. Questo viaggio all'interno della storia greca, siamo nel 416 avanti Cristo, il racconto dello scontro tra gli atenesi e gli abitanti dell'isola di Melo nelle Cicladi, che rivive per la scrittura e l'intenzione di Alessandro Baricco, che insomma già aveva fatto un bel viaggio, a più di un viaggio nella storia greca o nell'epica, ricordiamo la sua riscrittura dell'Iliade, ma anche la storia di Palamede raccontata lo scorso anno, nel 2016, al Palatino di Roma. Quindi Atene contro Melo, raccontato tramite, appunto, come ce l'ha raccontato Cicido, e Alessandro Baricco, l'11 settembre all'Auditorium Parco della Musica. Segnalo anche che l'Auditorium Conciliazione invece, questo fine settimana, la grandissima danza internazionale Sasha Valls and Guest Diego Noguera con Beethoven 7 alle ore 21, 13 e 14 di settembre. Io sto vedendo l'immagine, sono da urlo, realmente da urlo. Quindi sul sito Roma Europa Festival troviamo tutte le informazioni di questo grande lavoro di Sasha Valls. Sono 13 danzatrici e danzatori che si confrontano appunto con la Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven, con una composizione nuova commissionata a Diego Noguera, che riporta queste le domande e i temi posti da questa sinfonia alla cultura musicale attuale internazionale. Beethoven si chiedeva: le persone reali sono schiave dell'ambiente in cui vivono o possono dirsi libere? E attraverso proprio l'arte della libertà creativa come la danza, Sasha Valls prova a dare una risposta contemporanea. Questo per quanto riguarda Roma Europa Festival. E in ultimo torniamo e andiamo a evidenziare gli spettacoli di questa settimana di Short Theater. Invito intanto shorttheater.org per vedere il programma completo. Io segnalo che oggi, tra poco, alle ore 17, Giorgina P. andrà a presentare all'Angelo Mais la sua fotoromanza, un esperimento laboratoriale con un gruppo di oltre 40 over 65, che insomma hanno portato le loro testimonianze all'interno del laboratorio. E giovani, donne dai 65 agli 88 anni, con storie e biografie completamente diverse, però hanno confrontato la loro storia esprimendo anche, insomma, il loro archivio di fotografie e di momenti. E quindi è una bella condivisione pubblica domani pomeriggio alle ore 17 all'Angelo Mai. Poi segnalo stasera ancora Anna Maria Aimone con I pianti e lamenti dei pesci fossili, l'anteprima alla Pelanda. Segnalo un sacco di cose, questa danza per Anna Maria Aimone, lo stesso per Nunzia Picciallo con l'MV a seguire sempre alla Pelanda. Segnalo più di un appuntamento con il Conde de Torrefiel, la compagnia lusitana che presenta in questa settimana Cuerpos Celestes al Cimitero Monumentale del Verano, un soundwalk che attraverserà appunto il cimitero del Verano. Ancora mette in Parsen con Rush, ancora siamo nella danza, la danza la fa un po' da padrone, insomma. Adriana Borriello presenta Timelessness Dancers, con il terzo passo, Agnese Banti la performa con Speaking Cables, insomma tantissime opportunità questa settimana, soprattutto per vedere la danza, la performance. Ma segnalo anche appunto che il Conde de Torrefiel presenta anche sabato 14 Ultra Fiction numero 1, Fracciones de Tiempo, al Parco Tevere Marconi,